Una buonasera da parte di Max Macchia, un buongiorno, un buon pomeriggio, come volete, insomma, un po' faccio tutte le volte, vi auguro insomma buona porzione di giornata o buona giornata intera, perché no, visto che potreste anche sentirci a pezzettini tramite 451 frammenti sonori.noblogs.org, anzi, e quindi avere insomma possibilità, pluripossibilità di ascolto. Qua siamo in diretta su Radio Città Fujiko, appunto in mia compagnia, e questa sera, un po' come ho accennato la scorsa volta, nel frattempo insomma che passano gli ormai mitici aerei della zona, insomma, quindi li sentite un po' tutte le trasmissioni, ecco, l'aeroplano poi intorno alle 23 c'è sempre, chissà dove diavolo andrà. Beh, poi prima o poi insomma avremo anche contatti con l'aeroporto di Bologna per informarci, così magari facciamo anche un servizio e magari qualcuno è in ritardo, non lo riesce più a prendere, lo informiamo tramite radio. Una buonasera, appunto, di nuovo buonasera, facciamo che ci state ascoltando in diretta per il momento. Questa sera iniziamo con intanto con quello che doveva essere il brano di chiusura della scorsa puntata di 451 Frammenti Sonori, dedicata a Mika Waino, puntata importante sia in termini di corde generali che muovono 451 frammenti sonori, per via delle sperimentazioni, per via del personaggio Mika Waino, assolutamente eccezionale nel creare musiche così potenti, però anche nello stesso tempo, come dicevo la scorsa volta, raffinate o comunque quasi analitiche nell'essere una sorta di ricerca di un suono puro quando si voleva puro, memore magari anche di certa avanguardia che Mika Waino prenderà come punto di riferimento, quindi Stockhausen in primo, ma non solo, concretisti che attraversano le corde appunto del grande finlandese che purtroppo insomma è scomparso qualche settimana fa. Riniziamo appunto con lui per altre macchinazioni, 451 altre macchinazioni, quindi macchinazioni che non sono soltanto così viste come, o sentite in questo caso, come piani oscuri per chissà quale piano. Forse c'è anche il piano, le macchine sicuramente ci sono, forse è quell'altro, appunto, altre macchinazioni che ci interessano questa sera in termini di costruzioni diverse, in costruzioni che possono essere alterate o alterare, come quella di Mika Waino, che inizia proprio questo 451 Nax Schnee, pezzo fondamentale di Aguirre, una delle grandi colonne sonore e dei grandi momenti del Novecento tutto, potremmo dire. Herzog va e attraverso, potremmo dire, la scusa, che non è mai scusa, perché anche lì è l'analisi della conquista che arriva alla follia, la follia appunto di un uomo che pur avendo come idea quella di colonizzare, quindi essendo anche accettato insomma per quel periodo storico, ci stiamo riferendo insomma ai conquistadores, quindi con il beneplacito e addirittura insomma con la spinta anche dei grandi potentati insomma dell'epoca, si trova in tali situazioni che non può arrivare che alla follia, quindi una sorta di musica che poi accompagna appunto a questo viaggio infernale mentale e fisico del grande, tra l'altro, Klaus Kinski. E Mika Waino si tuffa appunto in sentendosi poi dentro quella forse quella interpretazione proprio del grande Kinski, e interpreta musicalmente quel grande lavoro che fu di Popol Vuh, che tante volte accompagnarono appunto Herzog, con musiche veramente strabilianti, musiche che vivono di momenti di pura allucinazione, quasi tra estasi, una sorta di veramente altra macchinazione, alta forse anche in questo caso, visto che veramente è una sorta di urlo cosmico che si va poi appunto a disperdere nella dentro e fuori, visto che appunto c'è sia il viatico del viaggio vero e proprio, dell'attraversamento fisico, e sia quello mentale, cerebrale, appunto sia musicale che attoriale che registico, una sorta di appunto momento incredibilmente ispirato di Kinski, Herzog e Popol Vuh. Beh, Mikalajn non ha paura di prendere, anzi forse tra le corde appunto del finlandese, sempre come dire, una sorta di zona liminare, con momenti appunto anche di deragliamento che non ci sono soltanto in termini musicali, sonori nella sua parabola artistica, ma anche appunto esistenziale, e come dire, la forma che si porta dentro il contenuto, un contenuto che è assolutamente esplosivo, come appunto come parte il pezzo, il remix di Mikalajn su Popol Vuh, da quel gigantesco film, da quell'esperienza visiva che è sonora, che fu appunto Aguirre di Werner Herzog per le musiche di Popol Vuh. intermittenze cosmiche, quelle di Mika Vaino sul appunto materiale di Popol Vuh, in questo caso appunto Nax Sne, che è uno dei pezzi, dicevo appunto, fondamentali per quanto riguarda sia la discografia, l'iter appunto di Popol Vuh, ma anche appunto quello filmico di Herzog e di Kinski. Quindi uno dei momenti alti, grandi del Novecento, e se con Mika Vaino, quindi recuperando un finale tra l'altro fantasmatico, quindi una sorta di apparizione appunto che ha fatto iniziare questo 451 frammenti sonori per queste altre macchinazioni, farmi in mente un effetto fantasmatico ce l'avrà anche la grande Caroline Kay, metà dei Nocturnal Emission, una delle grandi formazioni, dei grandi progetti dell'industrial, del non primissimo ma secondo periodo, potremmo dire la seconda ondata, ecco, forse con anche quella spinta che poi porterà verso musiche altre, anche in termini di creazione, di pontificazione, quindi di suoni nuovi anche in questo senso, secondi e non secondi, appunto a Cabaret Voltaire, Troubadour Gristol e compagnia rumorante, potremmo dire, della fine degli anni 70. Nocturnal Emission, formazione straordinaria per senso d'impatto musicale e per senso della composizione legata al rumore, e anche per appunto quello che poi sarà da una parte isolazionismo, dall'altra parte una sorta di ambient negativo, di dead ambient, come l'abbiamo chiamata da queste parti, o anche di suono dronico che va a impattare, appunto impastarsi, e anche facendo tale, diventando urticante, quindi impattando anche con un suono e una materia decisamente brumosa, che crea tuttora suoni che, portandoli poi verso altri lidi, ma semplicemente spostando insomma la chiave della macchinazione, ecco, dell'altra macchinazione di questa sera di 451, ci portano verso anche un metal drone, o verso appunto una ambient che si sposta e diventa appunto anche mutevole nel corso degli anni, andando proprio a prendere l'unico disco tratto dalla Caroline Kay, appunto disco dell'87, tra l'altro con la produzione di Nigel Ayers, quindi di fatto ancora Giro Nocturnal Emission, disco che soprattutto nel primo pezzo, nel primo lato dell'epoca, ma forse anche attuale, visto che stiamo aspettando una ristampa in vinile, anzi forse è uscita proprio da poco tempo dalla Blackest Ever Black, adesso leggo, quindi già con prezzi piuttosto elevati, ma insomma fatelo vostro, anche perché sentendo veramente come si muove questa materia decisamente difficile anche da trattare, appunto per brumosità e per anche materia scottante in termini musicali, anche in termini appunto di atmosfere che vengono a crearsi. Beh, Caroline Kay riesce a farlo spostando anche verso una sorta di suono rumorista, ma anche decisamente poetico, potremmo dire, appunto andando anche a solcare momenti armonici decisamente felici, forse no, però sicuramente così di perdita di macchinazione altra, appunto in termini di anche di allontanamento e quindi anche di così di perdita in questo senso, in termini proprio di anche proprio lasciarsi andare di fatto a un suono così magnetico. Caroline Kay, appunto, da questo gioiello dell'87. Thank you. 束できないことを信じること実在性についての認識の内容は本質的に確かなものでありビジョンと呼ばれるのにふさわしい da Caroline Kay, quel disco meraviglioso che fu appunto Now Wait for My Last Years del 1987, a un altro momento storico, magari sepolto, come dire, dentro le tante discografie, le tante uscite parallele, potremmo dire, di musiche che comunque per molti versi, insomma, sono diventate, se non famose, perlomeno di culto. Se pensiamo che appunto Caroline Kay faceva parte di quel progetto eccezionale che fu Nocturnal Emission, quindi andiamo anche a capire poi perché poi tante uscite, come d'altronde poi riprese una ventina d'anni dopo dal nuovo noise americano, prevedessero insomma una sorta di tattica shock anche in termini di merci o in alcuni casi anche antimerci, visto insomma certi oggetti anche contundenti che venivano dati o comunque tentando di deturnare quello che è appunto il semplice appunto disco all'epoca vinile, oggi di nuovo vinile, CD di mezzo, cassetta anche qua che torna, non torna. Ovvio che poi nel corso degli anni, come dire, la macchinazione ci porta anche verso un modo più disincantato di vedere queste tattiche, che comunque poi in termini di suono, di capacità appunto di trattare la materia sonora, oltre che appunto anche tutto quello che gira intorno alle musiche, lì siamo ancora veramente a livelli decisamente altri, avanzati, e quanto appunto si possa pensare rispetto a musiche che ancora muovono e ancora potranno muovere. E figura di culto anche, oltre che Caroline Kay, anche i Romi Mauritani, in arte più, con dischi veramente molto diradati anche nel corso del tempo, quindi ma anche qua mille progetti dentro veramente tanti progetti, e tra l'altro anche collaboratrice di personaggi di fama anche piuttosto notevole, come Ryuki Sakamoto, che tra l'altro sentiremo in chiusura di questa trasmissione di Bill Doswell, Anthony Fear, di buona parte dei Can, che l'aiuteranno proprio a fare il primo gioiello, primo album dell'81, proprio più come appunto la nominazione moniker utilizzato da i Romi Mauritani. E quindi anche qua una sorta di instabilità anche evoluta nel così depistare anche con discografie quasi accidentate, anzi, e poi lavori che invece in questi ultimi anni, rispetto appunto a quanto furono diradate dagli anni 80 fino ai nostri giorni, in questi ultimi 4 anni un disco all'anno. E tra l'altro abbiamo ascoltato proprio l'ultimissimo, uscito qualche settimana fa, Like Sleep, dove più ritrovando un suono sempre inquieto, sempre alla ricerca, anche qua le macchine utilizzate una chiave molto molto espressiva, se vogliamo anche espressionistica in certi punti, una vocalità che è molto nervosa, anche se fumosa, quasi onirica in alcuni aspetti, ma con un aspetto forse da incubo, e quindi anche qua una macchinazione, un'altra macchinazione che nel corso degli anni svela anche misteri dietro appunto a una figura così evanescente appunto come quella della giapponese, seppur molto presente, ma una presenza appunto quasi laterale o come dire veramente underground, e invece una presenza che dall'underground sta emergendo, pochissime cose fatte da parte del giovanissimo turco Tag, quindi Shahin Entezami, ho detto non so come, comunque ci ho provato, e turco con tra l'altro una scena che sta decisamente muovendosi bene, prima o poi tratteremo anche faccende che pian pianino stanno arrivando da queste parti, ma sentendo appunto il lavoro dell'artista di Tehran, Tag appunto il suo moniker o moniker, che veramente lavora con masse sonore impressionanti, con una capacità veramente degna di Mika Vaino per controllo e per appunto grande capacità nel riuscire con veramente oceani di suono, di noise, a portare tutto a una composizione che non va sulla semplice maniera del trattamento appunto del drone noise, ma diventa anche materia decisamente espressiva, un po' come le artisti che appunto stiamo trattando questa sera. Tag dal suo Downfall, anche questo è uscito pochissimo tempo fa, pochissime settimane fa, disco veramente notevole, uno probabilmente dei segni, dei marchi del 2017, senza stilare insomma classifiche anticipate, ma veramente anche dislocando appunto quello che sono le musiche e le sperimentazioni. Stiamo parlando appunto di Iran, e quindi di faccenda decisamente lontana, o perlomeno così non momentaneamente, ecco, dentro l'hype delle musiche e altre. Tag appunto da questo Downfall. veramente superlativo questo di Tag da parte dell'artista iraniano. Sicuramente torneremo a trattare di lui e delle sue musiche, sicuri che abbiamo pescato bene, soprattutto lui pesca bene con manipolazioni veramente notevoli del noise. E se dobbiamo concludere con un grande maestro, macchinazioni che vanno veramente avanti da decenni, dal tecnopop alle sperimentazioni, alle sinfonie, a quel sapore pop, sapore comunicativo e anche astratto, insomma, Ryuichi Sakamoto, disco bellissimo, l'ultimo, con momenti veramente quasi commoventi, come il pezzo con cui vi lascio, Solari, appunto dedicato al grande Tarkovsky. E qua c'è appunto anche proprio l'afflato di due visioni che si incontrano, e sentite come veramente che muove alle lacrime, una lacrima però decisamente cosmica, quella di Sakamoto. Al prossimo mercoledì, ciao da Max Macchia, e fate bravi, sì, dai, come al solito, sapete che ve lo dico, Ryuichi Sakamoto.